Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. Un saluto ai radioascoltatori, benvenuti alla rassegna stampa di Lucciole nelle tenebre. Un saluto da Dario e Claudia. Bene, andiamo con la prima notizia che riguarda la sentenza dell'Aquila e la condanna a 6 anni di reclusione per i componenti della commissione Grandi Rischi per la scossa relativa al 6 aprile 2012 per le indicazioni fornite imprecise sulla pericolosità dell'attività sismica che resero vane le attività per la tutela della popolazione. La decisione ha naturalmente scatenato la reazione del mondo della scienza e nel merito la condanna è da interpretare come una strumentalizzazione che la politica fece sulle informazioni fornite dalla commissione stessa. Da un articolo della Repubblica del 23 ottobre, scienziati USA e Giappone contro sentenza, terremoto non si può prevedere. Per gli esperti internazionali si tratta di una decisione assurda e pericolosa. Il presidente Napolitano dovrebbe intervenire. A te, Claudia. Sì, passiamo da un articolo del Fatto.it di venerdì 19 ottobre. 'Ndrangheta, l'operazione della Guardia di Finanza e del PM Natalini ha portato all'arresto del boss calabrese Rocco Baglio e dei suoi conterranei Salvatore Guarda e Marcello Limongelli. Baglio è indagato, oltre che per violenza ed estorsione, per corruzione negli appalti ottenuti con l'amministrazione dell'ex sindaco del paese modenese Serra Mazzoni. Nell'ordinanza di custodia cautelare emergono vari episodi attuati dal boss, dalle minacce di provocare risse in nightclub che non pagavano il pizzo, ad otto bossoli in busta chiusa ed avvertimento per uno sgarro, all'incendio all'abitazione di un costruttore. Nelle carte giudiziarie si legge che le azioni erano finalizzate a scoraggiare la partecipazione di eventuali altre imprese alle procedure di assegnazione degli appalti e subappalti, ovvero indurre i funzionari pubblici che ricoprivano un ruolo centrale nell'aggiudicazione di un appalto a seguire le indicazioni dell'organizzazione. Oltre alla garanzia di protezione c'era la corresponsione forzata di somme di denaro da altri imprenditori, ritenuti responsabili per non essersi adeguati nell'ambito delle trattative commerciali intercorse con le società riconducibili all'organizzazione criminale. Chi si adeguava invece, entrando a far parte del gruppo, otteneva oltre alla condivisione degli utili anche il loro appoggio nella risoluzione delle controversie di varia natura in cui risultavano coinvolti i soggetti collusi. Adesso andiamo alle novità che introduce il DDL anticorruzione approvato al Senato. Da un articolo di Il Mattino del 22 ottobre, corruzione, ecco le novità del DDL, nuova concussione e traffico di influenze. Il senso del DDL anticorruzione, ora modificato dal maxi emendamento da 84 commi, approvato al Senato è sempre quello: uniformare l'ordinamento italiano allineandolo il più possibile alle convenzioni internazionali ratificate o in corso di ratifica e alle indicazioni arrivate dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa sul contrasto al malaffare nella pubblica amministrazione. La concussione è uno dei punti fondanti della legge perché dà attuazione alle convenzioni europee. Il nuovo articolo 317 sarà limitato ai casi in cui la condotta concussiva abbia causato un vero e proprio effetto di costrizione al privato cittadino. Corruzione tra privati. nasce il traffico di influenze illecite con pene da 1 a 3 anni di reclusione. Punisce chi sfrutta le proprie relazioni con il pubblico ufficiale per farsi dare o promettere un vantaggio patrimoniale. Adesso passiamo nel merito della vicenda ad una curiosità anche abbastanza rilevante, ovvero la critica mossa dal CSM da un articolo del Sole 24 Ore del 19 ottobre. IDL anticorruzione, critico il CSM, pene troppo basse per il reato di concussione. Nell'articolo, nella costrizione viene eliminato tra i soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio e non si capisce perché, tanto più che dovrebbe rispondere di estorsione aggravata con una pena addirittura più severa. Ma non basta, desta perplessità la scelta di punire anche la vittima e se la pena, 3 anni, non sarà un vero deterrente, ostacolerà però le indagini nei reati di concussione per induzione, perché si creerà un nesso di solidarietà criminale tra indotto ed induttore, uniti da un patto segreto privo di tracce ulteriori. Un articolo del New York Times di lunedì 8 ottobre. Finita sulla pagina del noto quotidiano americano è l'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Nell'articolo, niente incarna di più i fallimenti dello Stato italiano. Nell'inchiesta si sottolinea come la tristemente nota 3 sia anche il simbolo delle preoccupazioni di molti paesi del Nord Europa per la corruzione dilagante in gran parte del Mezzogiorno. Il quadro descritto presenta l'autostrada iniziata a costruire negli anni 60, non ancora ultimata. Dal 2000 al 2011 l'Italia ha ricevuto una serie di finanziamenti europei andati completamente bruciati, cifre che si aggirano intorno ai 60 miliardi di euro in fondi strutturali. Scrive il New York Times che passare sulla 3 è per molti versi un viaggio nel lato oscuro della storia recente dell'Italia, dove un'amalgama di corruzione e clientelismo politico ha aiutato a far crescere il più alto debito pubblico in Europa dopo la Grecia. Triste pensare che i procuratori calabresi hanno mappato la 3 non sulla base dei cantieri, ma sulla base dei clan dell'Andrangheta posti a presidio di ogni tratto. Il New York Times ricorda che l'inchiesta ha portato alla luce non meno di 12 famiglie coinvolte in accordi silenti per drenare fondi e lavori. Secondo i critici del quotidiano, la Salerno-Reggio Calabria rappresenta il frutto marcio di una cultura che promuove lo scambio tra voti e posti di lavoro. Una cultura che, alimentata dal crimine organizzato, ha sistematicamente defraudato lo Stato, lasciando la Calabria geograficamente ed economicamente isolata. Il termine dei lavori è stato fissato dall'ANAS e dal governo per la fine del 2013, ma è una previsione attendibile o continuerà a trattarsi di un'eterna incompiuta? E per la rassegna stampa è tutto, passo la linea a te Peppe. Buona serata da Dario e Claudia. Accusa di corruzione, corruzione! Corruzione è l'interferenza del governo nell'efficienza del mercato sotto forma di regole. Lo dice Milton Friedman, al quale hanno dato il premio Nobel. Le nostre leggi sono fatte in modo tale da consentirci di farla franca. La corruzione è una protezione. La corruzione è il nostro posto al sole. La corruzione consente a te e a me di fare la bella vita anziché scannarci in mezzo alla strada per un brandello di carne. La corruzione è ciò che ci fa vincere. La corruzione nel nostro paese è un cancro le cui metastasi si sono allargate in modo generalizzato, invasivo, silenzioso, difficile da debellare, che uccide moralmente e fisicamente, una tangentopoli infinita che cambia aspetto e si rigenera anno dopo anno. La corruzione a livelli mastodontici e può crescere ancora se non si contrasta in modo netto, senza mediazioni, con volontà politica concreta, al di là delle parole. Ma se il costo diretto della corruzione, stimato all'incirca in 60 miliardi di euro, è un fardello pesante per i disastrati bilanci dello Stato, ancora più allarmanti sono i danni politici, sociali e ambientali. La corruzione ci ruba il futuro in tutti i sensi, una mega tassa occulta che impoverisce il paese sul piano economico, politico, culturale e ambientale, un male che comporta rischi per la credibilità della nostra economia, per la tenuta della nostra immagine all'estero, per gli investimenti nel nostro paese e che crea disuguaglianze, massacra le politiche sociali, avvelena l'ambiente e tiene in ostaggio la democrazia. Nell'ultima legislatura, tra il 2008 e il 2012, sono stati 90 i parlamentari indagati, condannati o arrestati per corruzione, concussione, truffe e abuso d'ufficio, di cui 59 del PDL, 13 del PD e 8 dell'UDC, circa il 10% di quelli che siedono alla Camera o al Senato. Bentornati in studio di Lucere nelle Tenebre. Oggi parleremo di corruzione. Abbiamo due esperti nell'ambito. Presentiamo il primo, il signor Emanuele Sottocasa. Emanuele... Buonasera. Ehi. Signore Emanuele. Scusate la interrompo, ma volevo salutare. Se potevo farlo salutare fino alla puntata, perché tenivano poche parenti che volevano essere salutate. Tutto a posto? Tutto a posto, con me. A posto. Volevo chiederle, lei è sicuramente un esperto in ambito della materia, potreste raccontarci un po' riguardo la corruzione, quello che lei ha vissuto e la sua esperienza, insomma. Ma posso parlare di Napoli però? Certo. Va bene, che dire, che a Napoli ci sta proprio la cultura del pizzo, l'imprenditore che vince l'appalto già è convinto che deve pagare e a volte è lui che ti viene a cercare. Nel periodo della metropolitana, se lo ricordo, no? Sì, sì, certo. C'è stata una specie di tangentopoli, un politico del quale onestamente non ricordo il nome. Non so che cosa aveva fatto, stava mise in mezzo, aveva bloccato alcune cose. E a me, fu dato incarico di malmenarlo soltanto. Lui stava mangiando con la scorta in un ristorante di via Cile, entra e ci mette una serie ceffone. Hai capito? Sì, ho capito, capito. La Repubblica, 11 giugno 2011. Bene, grazie tante al signor Emanuele. Posso fare un saluto? Sì, certo, vada, scusi. Mi piace che tu porti rispetto, perché sa portare rispetto pure che sto in pensione. Arrivederci. Ringraziamo la testimonianza del signor Emanuele Sottocasa. E adesso parliamo di un altro fenomeno altrettanto importante nell'ambito della corruzione, ovvero i cartelli. Cosa sono i cartelli? Come Libera è una rete d'associazione, i cartelli sono delle reti di imprenditori disonesti. Abbiamo qui in studio per parlare di questo fenomeno il signor Libero Scambio. Buonasera, signor Libero Scambio. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Parliamo un attimo di questo fenomeno che a noi è ignoto e sicuramente lei ci potrà dare delucidazioni al riguardo. Che cosa sono esattamente i cartelli? Allora, ci tengo a precisare innanzitutto che io non ho inventato niente. Sono l'ultimo che può inventare qualcosa. Ma da imprenditore le posso testimoniare che in qualunque gara tutti gli imprenditori di questo mondo, ogni volta che ovviamente si fa una gara interessante, partecipano sempre con due, tre aziende, proprie o di propri amici. Ma le sembra una cosa, come dire, legale, una cosa che sia corretta? Sicuramente dal punto di vista etico non è una prassi corretta, però le posso anche garantire che da che mondo è mondo, in Italia sicuramente, è una prassi che è sempre stata utilizzata e non eticamente corretta, però è sempre stata utilizzata. E quindi mi sta dicendo che è normale che questo accada e che quindi in Italia ci siano pochissime gare di bandi, di appalti e subappalti non nel rispetto della legalità? Le spiego, se io vinco una gara è ovvio che cerco di fare lavorare l'impresa di un mio amico, di un mio conoscente, perché dovrei fare altrimenti? Fanno tutti così? Noi non condividiamo, però immagino che questa sia la prassi, se lei è un esperto in materia. E niente, la ringraziamo per la sua testimonianza. Grazie a voi. Quindi concludiamo e salutiamo i nostri due ospiti e alla prossima. Arrivederci, alla prossima volta. Libero, ma tu fai l'imprenditore? Sì, perché? Perché tenissero poche terreni per fare un po' raffare, che ci potremmo vendere per fare un po' che grana, sì. Ottima proposta. Mi faccio parlare con il mio faccendiere. Ma te ne conto all'estero almeno, fai così. Per chi mi ha preso? Scusate. Dica. Che cosa state facendo? Niente, stiamo a parlare d'affari. Affari che cosa? Fuori da questo studio, fuori. Non si parla di corruzione in questo studio, capito? Andate fuori, adesso andiamo, andate fuori. Non si scaldi. Io sono il tecnico e decido chi sta qui, quindi fuori. Vabbè, io chiamo i carabinieri, chiamo. Pure Vardi chiamo. Vai fuori, mamma, andiamo fuori, Ed eccoci di nuovo qui, dopo lo sketch che c'è stato poco prima in redazione. Adesso passiamo ad un argomento più serio. Passiamo al costo della corruzione, che è stimato all'incirca 60 miliardi di euro. 60 miliardi, non esageriamo. Eh già, Beppe, è proprio così. Queste cifre catastrofiche non ci spaventano ancora oggi. La classe politica di questo paese è chiamata a fare delle scelte chiare, nette e concrete, ma che ancora oggi non ci sono state. Non abbiamo più bisogno di parole, ma di fatti. Quei fatti che, per esempio, ci sono stati un anno fa, quando Libere Avviso Pubblico hanno deciso di firmare, di far firmare delle cartoline. Cartoline che sono state mandate al Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica prende le cartoline, cioè le mazzette, dici? No, delle cartoline. Le cartoline, che cartoline? Sì, delle cartoline che gridavano, avevano, diciamo, l'obiettivo di gridare viva voce. Quello che magari molti cittadini vorrebbero dire, ma non lo fanno. E il Presidente della Repubblica le ha accettate e ha anche richiamato i parlamentari. Li ha richiamati volendo... Rimproverati, quindi. Sì, rimproverati. Esattamente, proprio così. Li ha rimproverati più volte e per l'adozione di provvedimenti legislativi attesi da troppo tempo e che ancora oggi non ci sono stati. 60 miliardi in qualche modo si devono accumulare, no? Già, ma ti ripeto, queste cifre così catastrofiche non vengono ancora oggi prese in considerazione. Purtroppo la corruzione costa, ma non tutti pagano allo stesso modo. A farne le spese purtroppo sono le fasce deboli, i poveri, gli umili, le cooperative sociali che chiudono, gli enti che sono costretti a tagliare sull'assistenza delle mense scolastiche e che non ce la fanno ad andare avanti. E ti credo, 60 miliardi sulla finanziaria di uno Stato praticamente di piccolo, medio, grande, uno Stato che magari come il nostro è in crisi e si vanta di avere il debito pubblico più grande del mondo, con 60 miliardi ne farebbe di lavoro. Già, è proprio così. E si ha poi il rischio di creare un doppio lato. Da un lato l'illegalità sdoganata in virtù della sua diffusione, in un clima di una generale rassegnazione. Dall'altro gli appesantimenti burocratici, la ridondanza di controlli, di leggi e leggine che diventano una sorta di persecuzione dello Stato sui cittadini onesti, messo in atto nel tentativo di colpire chi viola le regole. Eh sì, mi sa che è proprio la rassegnazione il problema in Italia. Cioè, come si fa ad accettare che vi siano dei corruttori, perché ci sono dei corruttori, che non vengono puniti, che riescono a sottrarre alle nostre tasche 60 miliardi, 60 miliardi di euro? Già. E tu pensa che molte volte questa corruzione uccide. Uccide sempre i più indifesi, come per esempio i bambini. I bambini, come fa la corruzione? Ora dai, ok, 60 miliardi, ok che sono soldi, siamo in crisi, ci farebbero comodo a tutti, ma dai, i bambini mi sembra esagerato ora. Ti sembrerà assurdo, ma se ci pensi è proprio così, perché in Italia nel 2010 il tasso di mortalità infantile è stato del 3,7 per mille, pare all'incirca 12.000 bambini deceduti in quella fascia d'età. Non è che le mazzette uccidono i bambini, Fede, cioè. No, ti faccio un esempio. Se burocrati e politici corrotti si accaparrano risorse destinate ad aiuti umanitari e investimenti nel settore sanitario, contribuiscono a deteriorare la qualità dei servizi erogati. Quindi quei soldi, quelle risorse che erano per i bambini e che servivano appunto ai più deboli non vengono mai, non arrivano mai. E noi stiamo ancora lì a credere che possiamo fare qualcosa. Ma poi c'è qualcuno che sta facendo qualcosa? Ma sì, guarda, per fortuna c'è un altro lato della corruzione, l'anticorruzione. Come per esempio Pisa. Pisa è una delle prime città in cui è stato creato, sempre con l'aiuto di Avviso Pubblico e Libera, la carta di Pisa, che è praticamente un aiuto per gli imprenditori locali che sono stanchi di questa corruzione, vogliono dire no. E Pisa, grazie anche al comune, è stata dichiarata la prima città che ha fatto, diciamo così, un passo in avanti. Forti sti imprenditori, l'hanno chiamata, mi pare, anticorruzione dal basso. Certo, dal basso mi sembra un po' complicato, come fai ad avere i soldi e la forza e l'impegno per fare robe del genere? E invece, al mio avviso, è proprio questo quello che serve oggi. Dovrebbe essere proprio la cittadinanza a svegliarsi, a fare qualcosa, a cominciare dal basso. Secondo te i cittadini lo capiscono che quei 60 miliardi di euro sono pure loro? Spero di sì, perché come ti ho detto prima la corruzione continua a uccidere. Potrebbe uccidere quindi anche i loro figli. Questa cosa dei bambini magari Certo, è difficile da far capire, è difficile da stimolare spesso anche il pensiero, la mentalità. Il dire sono tutti uguali, rubano tutti allo stesso modo sicuramente danneggia i cittadini italiani, danneggia noi in prima persona perché siamo quelli che su questo paese ci stiamo scommettendo e nel quale vogliamo crescere. Sì, infatti ti ripeto, secondo me tutto dovrebbe partire dal basso, è la società che si dovrebbe ribellare. Forse rifare un po' come quelle cartoline che ha fatto Libera Avviso Pubblico. Infatti, tra l'altro ricordo che quelle cartoline, un po' come aveva fatto Pio La Torre negli anni Ottanta, prevedevano appunto su richiesta di chi le aveva firmate la confisca dei beni corrotti, certo. Esattamente. Non mi sembra che stia andando per quel verso lì attualmente la cosa. Certo, sarebbe bello, magari Pio La Torre ha dovuto perire necessariamente prima che la Rognoni La Torre venisse approvata al Parlamento e i beni venissero confiscati, però chi lo sa, magari potrebbe essere un sogno che si avvera anche quello. Ce l'auguriamo, e così vi saluto. Saluto Peppe. Un saluto anche a te, Federica, è stato un piacere chiacchierare e farci qualche domanda. Adesso passiamo il nostro consueto appuntamento alla parte memoria, proprio perché Libera ci ricorda sempre come ricordare le vittime di mafia, testimoniare il loro impegno giorno dopo giorno sia una parte fondamentale per avere un esempio. Parte memoria oggi si occuperà di Serafino Famà, avvocato catanese, curato da Elena Graziana. Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico, qui è Lucciolo nelle Tenebre, ciao ciao! Disinteresse, rassegnazione dei cittadini sono il terreno più fertile per il ricorso all'adattamento alla pratica della corruzione. Per questa ragione, riconoscere e analizzare le esperienze positive, darne conoscenza, formare una massa critica di amministratori e cittadini sensibili all'integrità pubblica sono condizioni necessarie a riattivare i circuiti di controllo democratico. Ciao ragazzi, questa settimana nel momento dedicato alla memoria delle vittime di mafia vogliamo ricordare insieme l'avvocato Serafino Famà, di cui è appena trascorso il 17° anniversario dalla morte. L'avvocato Serafino Famà, uno dei più affermati avvocati penalisti del foro di Catania, ha pagato con la vita per aver svolto con dedizione il suo lavoro. In base a quanto riportato dalla sentenza di condanna, il movente dell'omicidio va individuato esclusivamente nel corretto esercizio dell'attività professionale espletata dall'avvocato Famà. Il 9 novembre 1995, alle ore 21, nella città di Catania, all'angolo fra via Raffaello Sanzio e via Liveto Scamacca, un individuo, viso scoperto, uccise con 6 pallottole Serafino Famà. A far luce su questo omicidio furono delle dichiarazioni da parte dei collaboratori di giustizia, secondo i quali l'avvocato sarebbe stato ucciso per aver deciso di non far testimoniare Stella Corrado in un processo che vedeva imputato Giuseppe Maria Di Giacomo, reggente dei clan Laudani. Quest'ultimo, arrestato mentre si trovava in compagnia della Corrado, moglie di suo cognato Di Mauro, era convinto che la testimonianza della donna avrebbe potuto scagionarlo. Stella Corrado, chiamata a deporre, si avvalse della facoltà riservata ai congiunti dell'imputato di non rispondere, su consiglio del suo difensore Famà. Di Giacomo, a causa della mancata deposizione e quindi della sua scarcerazione, dal carcere diede l'ordine di uccidere l'avvocato. Eccezionalmente è con noi la figlia dell'avvocato Famà, Flavia, che negli ultimi anni sta portando avanti una vera e propria battaglia di memoria e impegno quotidiano, una battaglia, non sempre facile. Inoltre Flavia collabora anche con associazioni collegate alla nostra, a Libera. Sì, Sì, ciao Flavia, sei in linea con la trasmissione Illustre nelle tenebre, programma del presidio universitario Libera Bologna. Ti andrebbe di condividere con noi un ricordo di tuo padre? Sì, grazie. Ciao a tutti intanto e grazie per il ricordo e per il vostro impegno. Ricordi ce ne sono tanti, personali, di quando mi insegnava ad andare in bicicletta, di quando mi insegnava a studiare e mi trasmetteva quei valori di dedizione e di impegno che poi ha portato insomma lui avanti per tutta la sua vita e che hanno appunto causato il suo omicidio. Purtroppo una delle cose che poi fa tanta rabbia a noi familiari è che i ricordi si fermano all'età di 13 anni, perché a 13 anni mi è stato portato via, per cui io adesso ho 30 anni e a volte penso che lui, proprio per questa sua dedizione, anzi per la cattiveria, la ferocia della criminalità organizzata, si è perso gli ultimi anni della mia vita, la mia laurea, il mio diploma, tutti i passi più importanti. Quindi questa è una delle cose che ci spinge, insieme a Libera, insieme agli altri familiari, a portare avanti il loro ricordo, il loro impegno, proprio affinché non succeda a nessun altro. Flavia, ti facciamo un'altra domanda. Sì. Un tuo parere sulla figura dell'avvocato oggi? Come la mafia entra a contatto con questa figura professionale? Guarda, la figura dell'avvocato penalista soprattutto è molto delicata, perché è veramente un garante della legalità, della Costituzione, di quel diritto sancito appunto dalla nostra Costituzione, che è il diritto alla difesa, ed è una figura fondamentale, perché immaginate che mondo terribile sarebbe se non ci fosse il diritto alla difesa, se non ci fosse un giusto processo e se non ci fosse la possibilità di battersi per la propria difesa e per la propria libertà. Allo stesso tempo, a volte l'avvocato è visto come un complice dei delinquenti, e purtroppo la storia ci insegna che in alcuni casi non sono mancati esempi di personalità corrotte anche nel mondo dell'avvocatura, per cui una figura molto delicata, un equilibrio molto difficile di garanzia della legalità da una parte e di salvaguardia dei diritti, ma allo stesso tempo di una distanza che ci deve essere tra l'avvocato e il cliente e la causa per la quale si batte. Ci deve essere sempre una scrivania, si dice in gergo, tra l'assistito e l'avvocato, per cui è sicuramente un baluardo della nostra democrazia ed è una cosa, insomma, un mestiere molto, molto difficile da fare, soprattutto se ci si crede come si credeva mio padre, che si dedicava veramente con l'anima al suo mestiere per far rispettare la legge e la Costituzione da tutti. Grazie Flavia, davvero ti ringraziamo per questo collegamento. Per noi che collaboriamo con Libera è veramente importante portare avanti il ricordo, perché appunto non bisogna lasciare i parenti, comunque non bisogna, soprattutto secondo noi, far perdere i loro gesti, le loro azioni, anche in questo caso questa morte, per tutti noi che crediamo nella... Sì. Sono gesti normali, appunto, come avete letto voi benissimo nella sentenza, esclusivamente il proprio dovere, non era un gesto eroico. Molte delle vittime della criminalità organizzata sono state uccise semplicemente perché si attenevano alle regole. La criminalità organizzata, la mafia, Cosa Nostra in questo caso, invece è abituata a comprare le persone, è abituata a un gioco gestito da loro senza nessuna regola, senza nessuna democrazia. Per cui fare memoria di questa semplicità, di garantire semplicemente il diritto di questa donna che non voleva assolutamente testimoniare, perché come avete letto nella sentenza di Giacomo è stato arrestato mentre si trovava con lei era la cognata e non voleva assolutamente andare in giudizio, e la legge prevede che lei si possa astenere, quindi nonostante la richiesta che fu fatta di farla testimoniare, mio padre si fece garante di quello che era un semplice diritto di questa persona, quindi non fu neanche